il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige, a cura di Emanuele Cenghiaro. Un passo decisivo per la tutela dell'origine dei nostri prodotti e per la salvaguardia del core business dell'artigianato veneto, la manifattura. Con queste parole il presidente di Confartigianato Imprese Veneto Giuseppe Sbalchiero ha commentato l'approvazione da parte del Parlamento europeo la scorsa settimana dell'obbligo di indicazione di origine controllata contenuto in una proposta di regolamento sulla sicurezza dei prodotti. In pratica si definirebbero nuove disposizioni in materia di made in per garantire la piena tracciabilità del prodotto. Per sapere che cosa questo possa significare nel concreto per il nostro territorio veneto, abbiamo oggi ospite Giuliano Secco, presidente nazionale del settore abbigliamento di Confartigianato, nonché portavoce del tavolo di concertazione del sistema moda del Veneto. Benvenuto Giuliano Secco. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Ecco, la prima domanda è: qual è la portata di questo nuovo regolamento se dovesse passare? Ma la portata va presa sotto un aspetto molto ma molto positivo se si conclude, perché adesso ricordiamoci deve passare per il Parlamento, quindi è stato fatto un passo molto grande grazie anche all'interessamento dell'onorevole Tajani, che è vicepresidente della Commissione UE, che noi come tavolo di concertazione del sistema moda Veneto siamo andati a trovare 2 anni fa per far capire l'importanza del made in. E il made in è tutto per il manifatturiero italiano, il made in è quella tracciabilità che permette all'acquirente finale di sapere che cosa compra e cosa acquista, e quel valore aggiunto che tutto il mondo ci invidia è quel tipologia di produzione che tutti cercano, cioè noi avremo in mano un potere enorme col made in che non possiamo sfruttare perché la comunità europea non la vede sotto questo aspetto, perché abbiamo problemi con i paesi del nord che sono tutti paesi commercianti e quindi per loro la tracciabilità del prodotto non la vedono bene. Certo, ecco, noi quando pensiamo a made in pensiamo sempre magari a Cina o ad altri paesi lontani, in realtà non serve andare così lontano, il discorso della tutela riguarda anche altri paesi europei, quindi... Certo, cioè, ma non sottovalutiamo le cose, bisogna sempre dirle per il verso giusto, che anche all'interno dell'Italia abbiamo qualcuno che rema contro, evidentemente i grandi gruppi, a loro non interessano il made in, perché con un prodotto fatto all'estero loro si rispecchiano già con i nomi in Italia di un prodotto italiano, mentre magari lo fanno all'estero, quindi diciamo la battaglia non l'abbiamo solo a livello mondiale, non solo a livello europeo, ma anche una piccola parte a livello nazionale, insomma. Cioè loro fanno business con prodotto anche se non è marchiato made in, ma però col nome stesso che magari tanti adoperano perché le loro attività, la loro azienda si rispecchia nel nome di Italia e quindi non hanno nessun interesse che ci sia made in. Ecco, questa proposta di regolamento, che appunto abbiamo ribadito, è una proposta di regolamento, non è ancora stata approvata, ma si spera che abbia una buona strada, insomma, riguarderebbe quali prodotti? Principalmente parliamo dell'abbigliamento, comunque del tessile, manifatturiero in genere? Prodotti riguarderebbero, per quanto riguarda la mia categoria, tutto quanto quei prodotti che fanno moda, che riguardano il sistema moda. Dopo è logico che, visto che ci siamo, se dopo riescono ad avere anche altre tipologie di lavoro, ben venga. Però noi abbiamo il problema dei paesi in Europa che devono accettare, perché il Parlamento va bene, c'è un tipo di votazione, però nel Consiglio europeo c'è un altro sistema di votazione e lì dovremmo avere dei paesi alleati che ci permettono di far passare questa normativa. Senta, che cosa cambierebbe però secondo voi nel concreto se dovesse passare questa normativa? Ma cambierebbero molto, sotto molti aspetti cambierebbe veramente tanto, perché intanto c'è una tracciabilità del prodotto e l'acquirente finale saprebbe cosa compra, e in più elimineremo quella contraffazione che è un danno enorme sia per l'economia italiana che per l'acquirente finale, perché non dimentichiamoci che la contraffazione è uno dei peggiori, peggior sistema per evadere, fa danni enormi a noi che produciamo in regola, che tutte le tipologie di lavoro, che rispettiamo tutto quello che il mondo ci obbliga a rispettare, mentre noi lo rispettiamo e all'estero non lo rispettano, quindi ci fanno una concorrenza sleale che a noi non va bene. E anche, certo, non solo ricordiamoci che ci fanno una concorrenza sleale non solo all'estero ma anche in Italia, i laboratori clandestini che ci sono, dove fanno un prodotto non rispettando le regole, non pagando tasse, non pagando conti brutti, quindi noi siamo costretti a mettere in cassa integrazione i nostri dipendenti, e c'è chi usufruisce invece non rispettando le regole e fa lavorare in schiavitù tanti. Ecco, no, non rispettare le regole non è solo una questione economica o di giustizia, ma può essere anche una questione di salute, perché non è detto che la sicurezza sia garantita secondo gli standard necessari. No, non è assicurata per niente la garanzia, perché abbiamo visto cosa è successo a Prato, abbiamo visto cosa è successo l'altro anno in giro per il mondo, c'è di tutto, e Prato forse è una piccola cosa di quello che potrebbe succedere, ma non solo di quello che può succedere direttamente nei laboratori, ma quello che può succedere anche alla gente quando indossa indumenti, io parlo per il mio settore, che sono fatti che non si sa dove, come e cosa contengono all'interno, e vediamo sempre di più che ci sono sempre cose nocive che possono danneggiare la pelle, possono danneggiare chi li adopera, insomma. Ecco, perfetto, ci dobbiamo fermare per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Sarai amico, ripensandoti, ti rivedo in me. La visione che avevi dell'amore, la tua ironia, e chissà dove sarai. Spesso da ragazzi passavamo insieme sere inutili, e fu in un giorno di festa per gioco, lo so, io lo so. Lessi nella tua mano, vidi sulla mano la tua fine, e così oggi dalla mia memoria scelgo il meglio della vita e del suo veloce volo, che finisce, come sempre accade, troppo presto. Qualcosa un po' di te mi è rimasto dentro, indimenticabile. Per gioco, lo so, io lo so, le sei nella tua mano, vedi sulla mano la tua fine, la tua fine. Qualcosa un po' di te mi è rimasto dentro, indimenticabile. Per gioco, lo so, io lo so, lessi nella tua mano, vide sulla mano la tua fine. Torniamo in linea con la trasmissione del Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di tutela del Made In e lo stiamo facendo con Giuliano Secco, presidente nazionale del settore abbigliamento di Confartigianato. Ecco, volevamo capire esattamente Made In che cosa significa e quale parte del, cioè tutto il prodotto deve essere, che viene coperto da questo, da questa sigla, o quale parte deve essere necessaria perché si possa parlare di Made In? No, non deve essere coperto. Per quanto riguarda il Made In, non deve essere coperta al 100% la produttività in Italia. Prima cosa, perché noi non siamo produttori di materia prima. Seconda cosa, perché bastano il 60% della lavorazione fatta in Italia, il resto può essere fatta in giro per il mondo e prende il Made In. Però diciamo che il Made In darebbe senso per una tracciabilità, perché anche se il prodotto venisse fatto all'estero, però io ho la tracciabilità di quello che è stato fatto, la cliente finale è già più consapevole di cosa va a comprare e di cosa indossa, e tutto quanto sarebbe fatto a regola d'arte, perché si può risalire a tutta la lavorazione da dove viene il prodotto. Oltre alle garanzie di sicurezza, esatto, che dicevamo prima, questo è fondamentale. Dopo noi stiamo mettendo in campo un altro sistema invece di un 100% Made in Italy, che quello invece, non essendo un'etichettatura obbligatoria, ma se non è vera c'è il penale, che è un'etichettatura in più per i nostri acquirenti, perché bisogna far sì che il manifatturiero, che è la nostra arma vincente in Italia, abbia quel valore aggiunto che tutto il mondo ci vuole, che tutto il mondo ci invidia. Quindi state cercando di avere questo marchio in più che dia la garanzia appunto del Made in Italy addirittura al 100%. Ma quello non occorre cercarlo, il 100% Made in Italy, perché, come le ripeto, non essendo obbligatorio è volontario, quindi uno se lo vuole lo mette, però in quel momento che l'ha messo, se non è vero che non corrisponde a quello che ha detto, c'è il penale che è molto ma molto... Esatto, certo. Non stiamo parlando però di agroalimentare, stiamo parlando esclusivamente di manifatturiero, ecco, perché l'agroalimentare ad altre tutele attraverso altri canali. Esatto, io parlo del manifatturiero e non posso parlare dell'agroalimentare, però il manifatturiero sappiamo già che per esempio nel nostro Veneto abbiamo oltre 250.000 addetti con 100.000 aziende, e quindi rappresentiamo una fetta molto ma molto grossa della produttività italiana. D'altronde noi sappiamo che il manifatturiero, noi in Italia non abbiamo risorse tipo oro, tipo petrolio, la nostra risorsa è il manifatturiero, la nostra risorsa è il Made In, il nostro wow è il Made In, quindi è questa la strada che noi dobbiamo percorrere per cercare di sfruttare il più possibile quello che noi sappiamo fare e che, ripeto, e continuerò sempre a ripetere, che il mondo ci richiede. Ecco, turismo e manifatturiero sono un po' le due nostre esatto, il nostro petrolio è manifatturiero. Non abbiamo altre risorse noi, quindi dovremmo essere più forti, più concentrati su questo per vincere queste battaglie che sono anni e anni che noi le portiamo avanti. E quindi anche un invito ai consumatori a cercare di acquistare prodotti italiani. Sì. Il consumatore dovrebbe essere tutelato sapendo cosa acquista. Stiamo mettendo in atto tante cose per far capire all'acquirente finale, al consumatore, di che cosa acquista, perché questa è la cosa più importante che deve emergere. Bene, allora speriamo che questa nuova risoluzione di questo regolamento dell'Unione Europea possa andare in porto. La ringraziamo del suo contributo. Grazie a lei e buona giornata a tutti. Grazie. Grazie. E concludiamo la trasmissione restando ancora in tema di Europa, perché l'Europarlamento nel corso dell'ultima sessione ha deciso che gli Stati membri dovranno ridurre il consumo dei sacchetti di plastica di almeno il 50% entro il 2017 e dell'80% entro il 2019. Ha inoltre apportato delle modifiche al Fondo Europeo di Solidarietà per consentire un flusso più rapido degli aiuti agli Stati membri colpiti da inondazioni o da altre calamità naturali. Sono stati poi approvati tre nuovi prodotti nella lista delle DOP IGP, il lupolo tedesco Elba Sale Opfen IGP e la crema e il burro di Bresse DOP francesi. Salgono così complessivamente a 1220 i prodotti dell'agroalimentare europeo riconosciuti dalle denominazioni di origine protetta DOP o dalle indicazioni geografiche protette IGP. Più in dettaglio, ad oggi risultano registrati 601 prodotti IGP, 574 DOP e 45 STG che sono specialità tradizionali garantite. Salvaguardia delle risorse ittiche, aspetti sanitari e normativi per una corretta gestione è il titolo di una serie di giornate informative dedicate alla protezione del patrimonio ittico autoctono organizzata da Veneto Agricoltura al fine di informare e coinvolgere le associazioni di pesca sportiva. Questo incontro rientra nell'attività informativa del Centro Ittico di Valdastico e affronta tematiche legate alla gestione, produzione e igiene dei prodotti dell'acquacoltura alla luce della recente normativa. Un primo incontro si terrà il 17 maggio dalle ore 9 nella sede di Sant'Artemio in via Caldibreda a Treviso. Con lo stesso programma si ripeterà il 31 maggio alla Cantina dei Colli Iberici di Lonigo, il 7 giugno al Museo Etnografico di Serravella a Cesio Maggiore in provincia di Belluno e infine il 14 giugno in Corte Benedettina a Legnaro. Dal 23 aprile al 10 maggio, dal mercoledì al sabato, presso i bastioni Santa Croce di Padova, si svolgerà il festival So Eco, So Good, organizzato dall'associazione culturale Cora Canè. Giunto alla terza edizione, è un evento realizzato da un gruppo di giovani volontari con l'obiettivo di creare un momento di aggregazione e divertimento attraverso il quale promuovere la diffusione di pratiche orientate alla sostenibilità ambientale e al benessere sociale. L'ingresso è libero tutte le sere. Anche per questa settimana è tutto, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima. Ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.